Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo rientrati noi di 451 intersezioni nel ormai nuovo, non possiamo dire classico, appuntamento del giovedì notte, essendo assolutamente un nuovo orario, un nuovo spazio per 451 intersezioni che per coloro che casualmente si sono messi in ascolto su Radio Città Fujiko oppure stavano già in ascolto di Radio Città Fujiko ma si aspettavano altro, ci saremo noi tutta la stagione 2015-2016, 451 intersezioni, spazio che invece precedentemente copriva la giornata del lunedì dalle 20 alle 21 in continuità, mantenendo quel filo rosso che univa noi di 451 a intersezioni, trasmissione storica del nostro compagno e amico Pier Antonio Pezzinga, scomparso purtroppo nel 2014, e noi abbiamo voluto continuare questa nostra amicizia e collaborazione musicale nonché vicinanza politica, continuando appunto per un anno nello stesso orario con un nuovo progetto 451 intersezioni, che cercava insomma di incontrare il linguaggio musicale, radiofonico e anche politico fra questi due spazi radiofonici e musicali. Da quest'anno abbiamo avuto questo spostamento d'orario nella giornata del giovedì, dunque ogni giovedì notte ci ritroveremo insieme, io, la radio, i musicisti, i progetti musicali e spero anche qualche ascoltatore, sempre giovedì notte dalle 24 all'una circa, e abbiamo iniziato la scorsa settimana con la prima puntata giovedì con Interstellar Jazz, è stata già inserita nel nostro blog, che vi ricordo ancora che oltretutto è un blog collettivo di due spazi. Ricordo sempre e saluto caramente amico e compagno Max Macchia, che ha condotto ieri la seconda puntata invece di 451 frammenti sonori dalle 23 all'una di notte circa, dunque ve lo ricordo sempre, mercoledì 451 frammenti sonori e ovviamente giovedì 451 intersezioni alla mezzanotte fino all'una circa. Questi sono due progetti radiofonici collegati, fanno parte appunto di un network, di un progetto collettivo che porteremo avanti anche questa stagione, che si chiama appunto 451 come progetto che ingloba entrambe le trasmissioni. Troverete le informazioni sul nostro blog 451frammentisonori.noblogs.org, dove appunto troverete le informazioni delle trasmissioni passate, i progetti futuri e anche, se volete interagire o mandare materiali anche musicali collegati ovviamente alla sperimentazione e all'avanguardia, perché questo diciamo il nostro filo conduttore che ci ha unito ormai da molti anni, ancora prima che venissimo qua sulle onde di Radio Città Fujiko, anche precedentemente in altre dimensioni radiofoniche che non voglio nemmeno nominare e ricordare, perché non abbiamo sicuramente un buon ricordo e ci siamo sicuramente lasciati non proprio in maniera distensiva. Radio Città Fujiko ha dato la possibilità comunque al nostro network 451, al nostro progetto collettivo e sperimentale, di portare avanti questi due spazi, e stasera, dopo la puntata più dedicata a un jazz spaziale, mistico e psichedelico, ci addentriamo verso un'altra dimensione musicale, anzi una dimensione decostruita. Il titolo di stasera, della puntata di stasera, è Dimensioni decostruite. Ecco, su questa definizione, su questo titolo ci si potrebbe inventare mille cose, ma in realtà l'idea è quella di sviluppare un percorso sonoro concettuale su questa idea di una dimensione decostruita. Dimensione che cosa intendo? La dimensione è intesa come dimensione spazio-temporale, dunque anche nella, diciamo, scrittura musicale, nel linguaggio musicale sperimentale, un modo di elaborare e di costruire dei flussi sonori, dei brani musicali, dove appunto la dimensione spazio-tempo viene completamente decostruita, non si hanno assolutamente punti di riferimento sia nella composizione, nello sviluppo proprio compositivo dei brani, sia nei suoni e sia anche nell'uso dei silenzi, dei rumori, di un certo Phil Recordings che attraverserà un po' tutta la puntata di stasera, ma attraverseremo anche autori che cercano di addentrarsi dentro la materia dronica, dunque flussi sonori, suoni dronici continuati che hanno in realtà mille sfumature, mille colori, ma che a una percezione, diciamo, non particolarmente attraversata da quel suono potrebbe sembrare appunto univoco, quasi un suono fisso. In realtà non è così, ma l'effetto dronico è appunto quello quasi di un mantra, di un effetto psichedelico, ma anche appunto da viaggio e da meditazione. E nello stesso tempo, ovviamente, una materia come quella legata allo spazio e anche la dimensione temporale, e potremmo anche metterci altre dimensioni, perché possiamo ovviamente immaginarci, ma non solo scientificamente sono anche elaborate queste teorie, altre dimensioni appunto che vengono decostruite. In questo ovviamente si adatta perfettamente tutto il linguaggio legato alla musica ambientale, ma non solo, ci sarà ovviamente anche un riferimento abbastanza chiaro in alcuni progetti musicali di stasera nei confronti di quello che è stata denominata l'estetica dell'assenza, dunque suoni e dimensioni sonore estremamente vacue, distanti e soprattutto quasi assenti, la parola stessa lo dice, e attraverseremo anche luoghi connessi alla contemporanea e anche la musica industriale. Qualcuno dirà, ma com'è possibile mischiare tutte queste cose? In realtà molti autori non possono essere neanche definiti o etichettati, ma attraversano suoni, linguaggi e dimensioni completamente differenti in realtà, ma che si inseriscono dentro il progetto concettuale musicale degli autori di stasera. E apriremo dentro questo discorso di dimensioni decostruite con un nuovo autore, uno degli autori più interessanti secondo me della scena sperimentale legata al field recordings, ma anche alla manipolazione elettroacustica, alle dimensioni droniche ambientali. Si tratta di Marcus Fischer, nato nel 1977, un musicista ma anche un artista multimediale, spesso appunto lavora con delle interazioni nei live con l'aspetto video oltre che sonoro, ma anche con elaborazioni connesse a installazioni visive, sonore, appunto in luoghi, in dimensioni anche ovviamente artistiche molto più poliedriche. Autore americano, nato in Oregon, ha iniziato la sua esperienza musicale alla fine, diciamo, degli anni zero, prima della decada del 2010. Il primo album uscito per la 12K è del 2010 e proprio ascolteremo un frammento di questo splendido album che vi consiglio assolutamente. Si tratta di Mono Coastal, uscito appunto per la 12K nel 2010, e ascolteremo Shape to Shore per iniziare questo viaggio. Speriamo che anche voi dentro queste dimensioni decostruite vi decostruite anche voi. Chissà, mi decostruirò anch'io nel linguaggio, nella conduzione, potrebbe essere un effetto interessante. D'altronde la decostruzione ha attraversato nel linguaggio, nella scrittura, movimenti d'avanguardia del Novecento molto importanti, e chiaramente ci sarà un riferimento, perché questo lo voglio sempre fare, anche il movimento futurista che ha attraversato particolarmente il compagno amico Max Macchia, ma anche sicuramente me, Elisio Scarpa. Un buon ascolto, dunque. Iniziamo il nostro percorso dentro dimensioni decostruite con Marcus Fischer da Mono Coastal. Buon ascolto. Thank you. Siamo rientrati in diretta dopo questo splendido brano tratto appunto dall'album di Marcus Fischer, Monaco Astal, 2010. Abbiamo sentito un estratto. Per certi versi può anche, diciamo, sembrare questo tipo di elaborazione musicale è qualcosa che appunto vaga, no, nelle dimensioni spaziale e temporale. In alcuni momenti sembra quasi una ninna nanna piuttosto dilatata, in alcuni momenti sembra quasi una dimensione sognante o una dimensione appunto di un non luogo che viene rappresentata attraverso il suono e questa elaborazione compositiva di Fischer. Fischer che in tutto l'album elabora questo tipo di atmosfere, però utilizzando anche un'interazione abbastanza interessante anche sul piano analogico, con chitarre e scordature simil accordature che vengono sviluppate attraverso la composizione, appunto l'assenza e anche il non luogo che rappresenta fortemente l'idea di questo autore, che negli ultimi anni ha sviluppato altri album però meno interessanti di questo album d'esordio, che si inseriva perfettamente nell'idea della trasmissione di stasera di dimensioni decostruite. E dentro proprio la logica dell'estetica dell'assenza, del non suono, del non luogo, si inserisce perfettamente uno dei maestri della field recordings, dunque registrazioni sviluppate in ambienti o in situazioni anche abbastanza particolari o estreme. L'autore che adesso andremo a presentare, che è Mark Behrens, nato a Darmstadt in Germania, oltretutto nello stesso anno in cui sono nato io, ma non ve lo dirò perché sennò si scopre l'arcano, andatevelo a cercare su internet. Mark Behrens è un autore che già da molti anni porta avanti questo tipo di sperimentazioni elettroniche e interagenti con dimensioni analogiche, ma soprattutto appunto le registrazioni in questi luoghi anche piuttosto lontani e particolari, da viaggi in Cina e Medio Oriente, dove l'autore registrava appunto con microfonazioni i suoni dell'ambiente, i rumori delle strade, delle città, delle località e dei villaggi anche medio orientali, fino ad arrivare fino in Cina, in dimensioni invece connesse a foreste o ambienti legati a fiumi, a mare, dove registrava appunto i suoni derivanti sia dall'ambiente naturale che dagli uccelli, che i suoni dell'acqua scrosciante, fino ad arrivare poi alle registrazioni, una delle ultime, nella foresta amazzonica, con cui ha anche lavorato con un altro autore che ha attraversato anche in passato 451, cioè Francisco Lopez, che è uno dei maestri di queste registrazioni estremamente suggestive e affascinanti. Uno potrebbe pensare che cosa può uscire da una registrazione di mezz'ora, 40 minuti, un'ora di suoni ambientali in una foresta, in una cascata, in riva al mare. In realtà escono fuori dei suoni particolarissimi se vengono microfonati, trattati successivamente o messi in interazione anche con parti elettroniche, filtraggi e effettistiche su questi suoni catturati dal microfono o da microfoni posizionati in determinate direzioni. L'effetto è veramente suggestivo, e in questo album che andremo a presentare di Mark Behrens, che oltretutto, come lo stesso Marcus Fischer, è un autore poliedrico, essendo appunto un artista multimediale, lavora anche sul piano della fotografia, nell'elaborazione di video, in installazioni sonore, ha anche attraversato sonorizzazioni anche in ambito cinematografico, dunque un autore molto aperto, molto interessato anche a varie espressioni artistiche e personali e creative. Si è sempre più avvicinata a questo discorso del field recordings, fino ad arrivare soprattutto in questo album che presenteremo ora, cioè il disco uscito esattamente nel 2007, Architectural Commentaries 5 and 6, uscito nel 2007, dove appunto l'estetica dell'assenza, il suono portato alle estreme conseguenze, anche fino ad arrivare appunto a un suono assolutamente impercettibile, fino ad arrivare anche a un suono potentissimo, fortissimo e quasi anche al primo impatto fastidioso, urticante, che si avvicina anche molto a certe dimensioni, a certe concettualità compositive tipiche della musica industriale, dunque l'aspetto dronico, l'aspetto del free recordings, l'aspetto dell'assenza sonora, dello spazio sonoro, anche appunto riempito con il silenzio, e a suoni che si alternano a dimensioni frequenziali fortissime ad altre invece estremamente flebili. Ci andiamo ad ascoltare ovviamente una traccia di questo splendido lavoro uscito per l'Entract, e ci andiamo ad ascoltare ovviamente una delle tracce di questo album. Sono tutte piuttosto lunghe, ascolteremo una parte di Architectural Commentary, proprio il brano di apertura dell'album, ve lo consiglio ovviamente vivamente. Sentiamo l'aspetto appunto delle dimensioni decostruite da parte di un tedesco dopo essere passati inizialmente nel territorio statunitense. Mark Behrens, Architectural Commentaries. Siamo rientrati in diretta dopo questo vero e proprio bombardamento sonoro attraverso momenti di completo silenzio, di suoni estremamente impercettibili, con frequenze altissime, bassissime, che non, chiaramente difficilmente anche recepibili da certi stereo, soprattutto via radiofonica, ma alcuni momenti invece dove il suono diventa fortemente spaventoso, dirompente, trascinante, che alterna appunto attraverso queste fasi sonori anche in termini di potenza, l'aspetto appunto connessa al field recordings, alle registrazioni ambientali e appunto di suoni, di luoghi aperti, chiusi, di registrazioni molte volte effettuate anche casualmente in ambienti non solo cittadini ma anche appunto connessi alla campagna, alla montagna, al mare, a dimensioni piuttosto lontane, a foreste, a cascate, a fiumi, e a suoni anche del vento, tutto ciò che attraversa, diciamo, l'udibile umano, le frequenze umane, non solo attraverso microfonazioni, ma poi con il trattamento sonoro successivo attraverso appunto la manipolazione elettronica, l'effettistica, il filtraggio complessivo dei sonori, la selezione, anche il taglio e l'elaborazione appunto anche di suoni captati attraverso la microfonazione esterna. In questo sicuramente Mark Behrens è uno dei più interessanti autori su questo tipo di universo sonoro, su questa decostruzione dimensionale, e subito dopo ci addentriamo dentro invece un autore che esce molto in maniera molto particolare, non da una dimensione prettamente musicale, ma addirittura da una dimensione ingegneristica. Lui nasce come ingegnere del suono, tant'è che è stato uno degli creatori, uno dei collaboratori per la creazione di programmi sonori elettronici importantissimi che hanno fatto uscire un sacco di musicisti e di artisti fai da te, insomma, a casa, nella home e nel PC, attraverso due grandi programmi che hanno attraversato molti musicisti, anche per coloro che iniziano ad approcciarsi alla composizione elettronica, al campionamento e non solo, e anche alla composizione. Parliamo di due programmi molto usati come Cubase e Ableton, dove appunto Robert Henke è stato uno degli ingegneri che ha lavorato per la creazione di questi programmi, scusate. E Robert Henke è nato in Germania, a Berlino, autore tedesco che poi da ingegnere ha incominciato a costruire e elaborare progetti musicali, composizioni, con un approccio sicuramente molto interessante, dove l'aspetto dronico, il suono, viene esplorato nelle sue forme più ancestrali e più complesse, quasi impercettibili, verso un'elaborazione poi di flussi sonori sicuramente molto ricchi anche di elaborazioni frequenziali e anche di dinamiche compositive abbastanza inedite per un musicista tra virgolette canonico. Autore che è iniziato già dal 1994 per l'Imbalance Recordings con i primi album Percy Music sicuramente interessanti, per arrivare poi sempre di più verso un suono dronico di flusso con momenti anche molto connessi al noise, con chiari riferimenti anche ovviamente a portati tipici anche della musica industriale. Noi andremo a prendere un album del 2006, L'Iron Buddha dell'Imbalance, un disco che poi successivamente ha fatto anche nascere un live che è stato prodotto estremamente interessante, anche perché L'Iron Buddha, l'album in studio, è stato poi realizzato in live con un'interazione diretta attraverso delle microfonazioni anche con il pubblico che intorno alla base sonora, alla strumentazione elettronica di Robert Henke, interagiva attraverso appunto questi contatti, questi microfoni a contatto, che comunque anche suoni o movimenti anche impercettibili degli stessi spettatori andavano in interazione con la composizione elettronica. Nulla di estremamente nuovo, perché le elaborazioni di questo tipo erano state fatte anche precedentemente da musicisti d'avanguardia nell'ambito elettronico contemporaneo, anche ad esempio autori e progetti musicali estremamente militanti e politici, seppur sperimentali, ma in questo erano ancora più rivoluzionari e dirompenti, come gli Aria, che nelle performance degli anni 70, soprattutto quelle più sperimentali, in particolar modo anche le elaborazioni sperimentali dello stesso Demetrio Stratos andavano proprio verso questa direzione, con un'interazione continua anche con gli stessi spettatori, che non erano più spettatori ma erano parte integrante del live, del progetto musicale, del suono che si produceva in maniera assolutamente unica e ripetibile in quel momento. Anche, come tanti altri, ha portato avanti questo tipo di interazione, cercando di rompere anche quella classica staticità e quella, quell'aspetto quasi monolitico e di semidio di tanti musicisti, anche nell'ambito sperimentale, non solo in quello pop o commerciale, che separava, no, l'ambito dello spettatore e di coloro che andavano ad ascoltare o a vedere delle performance musicali, non solo, e gli autori, i musicisti che erano sopra anche fisicamente un palco. Tutto questo viene rotto attraverso una dimensione completamente orizzontale, dove l'elaborazione musicale, il suono prodotto in quel momento, in quella ora, in quelle due ore di performance, erano parte integrante di vari elementi. Dunque, dallo stesso musicista ai suoni che potevano casualmente emergere dall'ambiente, agli stessi ascoltatori appassionati che circondavano il luogo, dunque creando un suono assolutamente unico. Andremo ad ascoltare una traccia da questo splendido album L'Air and Buddha del 2006. Non ascolteremo live, ma ascolteremo proprio una traccia dall'album in studio uscito nel 2006. Dunque, addentriamoci dentro il suono dronico, noise e anche con forti richiami industrial di Robert Henke. Buon ascolto. Thank you.